jour, bidon, sesta puntata. E buongiorno e benvenuti alla sesta puntata di Bonjour Bidon. Io sono Angelo Trofa. E io sono Leonardo Piccione. Ma ciao. Cosa c'hai in bocca? Cosa stai facendo? Oh, il pane in carasau, ne ho vinti 3 pacchi ieri. Vabbè che hai vinto, perché ieri hai indovinato il nostro Aru, hai indovinato il fatto che lui vincesse. Ma non che ti mangi adesso il pane carasau. Ho indovinato anche il fatto che non arrivasse la fuga, che la BMC tirasse e che Aru vincesse. Ho capito che hai indovinato il pronostico. Mi spezzo un altro pezzo di pane. Sì, ma non è il momento di mangiarlo adesso, siamo in diretta, c'è la gente che ci ascolta. E poi è buonissimo. Sì, lo so che è buonissimo, quello è pane Guttiau, tra l'altro. Quella differenza. Ora non è il momento di parlare del pane Guttiau, è il momento di lasciarci andare l'esaltazione, perché ieri grandissima vittoria del campione di casa. Noi siamo a Cagliari, siamo vicini alla capitale del mondo, ovvero vicini a Villa Cidro, e oggi il nostro cuore, che ieri si è alzato dal divano trionfante, può urlare con tutta la voce e con tutto l'entusiasmo quello che noi volevamo urlare dall'inizio, ovvero forza Aru! E incominciamo! Ale! Quanta esaltazione, Angelo. Sì, molta esaltazione. Sì, sì, dai, sì. Siamo contenti un po' tutti per quello che è successo. Credo proprio di sì, è stata veramente una bellissima azione quella di Aru, almeno dal mio punto di vista. No, ci ha esaltato, anche mi aspettavo mio. Qualcosa, ma non in quel momento. Veramente uno scatto violentissimo, potentissimo, una bella vittoria e un terzo posto in classifica generale che veramente mi inorgoglisce. Sì, sì, inorgoglisce tutti, in particolare i sardi, in particolare io vorrei ascoltare oggi il nostro sardo in sardo per sapere un modo genuino per esaltare questa vittoria di Fabio Aru di ieri. Sì, oggi proprio vista la vittoria di Fabio Aru ieri alla Planche des Belles Filles, stravolgiamo la scaletta, sì, e dai, cominciamo ad ascoltare le parole sapienti di Elio Turner-Temalle, che come vi ricorderete ogni giorno ci dice una pillola, un aneddoto, ma soprattutto un'espressione in sardo, e vediamo quella di oggi che coronerà con la sua letteratura la vittoria di Fabio Aru. Quando si ha la sorte contraria, si pensa spesso che farcela sia un'impresa impossibile, e allora riuscire acquista un valore in più, non solo di gioia inaspettata, ma anche di rivalsa, di ricompensa a una fatica iniqua, come in una corsa di cavalli, quando il più sfiancato riesce a guadagnare la testa della gara. Si dice allora che il fantino abbia postu quadu in facci all'avversario, l'abbia cioè costretto a guardarlo stando in posizione di chi insegue. Forse in questo c'è poco fair play, ma quando si rovescia una situazione svantaggiata in partenza, vale più l'urlo di gioia che la compassata soddisfazione. Fantastico, mi piace perché poi ha fatto il paragone con il mondo equestre, no? Sì. E Fabio Aru è il cavaliere dei quattro mori, e tra l'altro dice una cosa reale, cioè che ha costretto i suoi avversari a guardarlo, perché ieri Fabio Aru è scattato in faccia, in pratica, agli uomini della Sky, a Henao, Thomas e Froome, che erano davanti in quel momento, a 2,5 km dall'arrivo, e li ha costretti a inseguire con ritardo, perché a Froome poi ieri ha detto: ho sottovalutato l'azione di Aru. Ha sottovalutato l'azione di Aru, ma soprattutto sa che adesso in futuro ci sarà un'altra persona della quale guardarsi, forse lo guarderanno ancora di più. Ti ricordi che l'anno scorso Froome, parlando di Aru, un giorno disse: ma chi è? Non so nemmeno dov'è in classifica generale, gli disse l'anno scorso. Simpaticissimo Froome. Ora direi che se guardi la classifica è quello che è appena 2 gradini sotto di te, e nella classifica della tappa di ieri è 2 gradini prima di te. Ma non ci esaltiamo, sì, non perché fatto. Froome è forte ed è in crescita, secondo me. Ma ne parleremo tra un po'. Adesso, proprio per continuare nel clima dell'esaltazione, vi ricordo che noi siamo a Cagliari, siamo certo. In diretta, quindi noi siamo nel cuore della regione che si vanta di avere il campione italiano e il vincitore di tappa di ieri, una bellissima tappa, cioè negli ultimi chilometri, bellissima. Abbiamo il modo di leggervi la rassegna stampa, ovvero cosa scrivono i giornali sardi, visto che volevamo essere un po' di parte, almeno all'inizio, su Fabio Aru e sulla sua impresa di ieri. Dai. Quindi leggiamoci un po' di rassegna stampa. Cos'è? Non c'era lo stacchetto. No, niente stacchetto per la rassegna stampa. Ma non c'è problema. Abbiamo qui caldi i giornali sardi, sono 2, come saprete. E cominciamo dalla Nuova Sardegna, che nella pagina dello sport sì. Titola Aru, da leggenda sulla prima vera salita. Il capitano della Stana, primo sul traguardo di La Planche des Belles Filles, frumi in giallo con appena 14 secondi. L'appena è importante, l'appena 14 secondi. Appena 14 secondi. Sì, diciamo che io nella mia ingenuità accarezzo un sogno che non dirò, come non ho detto ieri, non qual diciamo era il mio niente. Sogno per ieri. Accarezzo un sogno, magari non un sogno definitivo a Parigi, ma un sogno intermedio ce l'ho. Ma invece l'incipit di questo articolo. Assolutamente, la Nuova Sardegna inizia in maniera poetica ed è importante leggerlo. La maglia sola al comando, questa volta non era bianco celeste come quella griffata a bianchi e indossata da Fausto Coppi, descritta magicamente in una radiocronaca del primo dopoguerra, ma i contorni dell'impresa di Fabio Aru alla Planche des Belles Filles ha comunque risvolti vintage. Ma vintage, ma cos'ha di vintage questa impresa? Vintage, vintage, vintage. Funziona sempre il vintage. Perché la vittoria è sempre un po' vintage. Si vinceva nei tempi antichi, si vince anche oggi. Beh, invece io ho letto l'Unione Sarda. Sì. No, scusa, la Nuova Sardegna. No, no. L'Unione Sarda. Scusa, io non sono esperto dei giornali sardi. Sull'Unione Sarda si parla di Aru, ovviamente. Aru, una vittoria da fuoriclasse. E anche qui l'incipit, niente male. Il primo scatto del 104esimo Tour de France è come il fulmine di Zeus che si abbatte sulla salita verso la Planche des Belles Filles. No? Il fulmine di Zeus. Bello, bello. Dove no? Villacidro è l'Olimpo. No, però adesso fammi dire quest'altra cosa, perché nella pagina, qualche pagina prima dello sport, nella Nuova Sardegna, no, è l'Unione Sarda. Nell'Unione Sarda, mannaggia. C'è una intervista bellissima a un rabdomante. Cioè, sì. C'è una pagina intera. E ti dico cosa c'entra, perché intanto te lo presento, un rabdomante che si chiama Dino Materazzo, ha 73 anni e in carriera ha trovato oltre 400 vene sorgive in tutta la Sardegna. Lo chiamano tutta la Sardegna per creare dei pozzi. Sì. La cosa interessante è che il nostro Dino Materazzo, al nostro Dino Materazzo chiedono qual è il pozzo del quale vai più fiero di tutta la sua carriera, e sai dov'è il pozzo del quale Dino Materazzo va più fiero? Sull'Olimpo? No, è quello che ha scoperto nell'ippodromo di Villacidro. Ma è collegamento perfetto, ippodromo cavaliere, Villacidro cavaliere dei Quattro Mori, perfetto. Poi dobbiamo leggere i segni, la Sardegna è una terra mistica fatta di segni, di tradizioni, questo è un segno. Se il rabdomante più famoso della Sardegna ha trovato il suo pozzo preferito a Villacidro, ci sarà un motivo. Vabbè, stai attento che siamo vicini, vicini, vicinissimi a Radio 3, te lo sto dicendo. Siamo vicini a Radio 3. Per cercare di evitare questo pericolo, chiamiamo il nostro Zeus, che lancia le sue folgori da Milano. Sì, basta, oggi perdiamo ogni contegno. E chiamiamo lo Zeus di Bidon, ovvero l'ottimo Filippo Cauz. Forse c'è lo stacchetto. Ce l'avevi? Ce l'avevi? Ciao Zeus. C'era lo stacchetto? Sì, c'era. Partito un motorino nel frattempo dietro di me, per cui non lo so. Dove sei? Volevo dire che a me sono al parco in questo. Sei al parco? Pensa che culo. Volevo dirvi che a me hanno insegnato a fare il rabdomante in Messico. È vero? Il tipo che mi ha tenuto tutto il pomeriggio a mostrarmi questi pezzi di legno, come funziona, e secondo me è una colossale balla. Ma non credo sia possibile, e proprio per questo lo sostengo, perché a me, come è noto, la realtà annoia, mi piacciono molto le cose inventate. Però è stata un'esperienza interessante. Dino Materazzo suggerisce la pertica di olivastro come bastoncino ideale per svolgere l'attività. Deve essere molto verde, l'unica cosa che mi aveva insegnato. Ah, deve essere questa. Verde. Sì, vabbè, però stiamo divagando, Filippo, ti abbiamo chiamato per cambiare argomento, non per tornare su questa cosa che appassiona così tanto Leonardo Piccione. Ho reso conto ocra sulla storia dei rapporti nei prossimi giorni, non volevo rovinare l'attesa, ma... Lo suggeriremo alla nostra fiammetta Ruglio. Dici un po', Filippo. Se hai delle ali di un airone puoi trovare una vena d'acqua. Certo, è ottima. Filippo, dici un po', come ti è parsa questa vittoria di Fabio Aru? Ma soprattutto, cambia il tour di Fabio adesso? Beh, ieri sicuramente ha fatto un gran numero. Io me la sono rivista poi dopo e mi sono rivisto il finale, nel senso che la tappa poi si è decisa tutta nello spazio di pochissimi metri. E quello che mi ha impressionato andandomelo a rivedere, lui è partito, ha avuto il colpo d'occhio di partire nel momento in cui i big bene o male si stavano guardando, e forse anche sfruttando il fatto che partiva un po' meno favorito rispetto ad altri, no? E lì è stato estremamente bravo a cogliere il momento, ha costruito subito il vantaggio e poi dietro comunque, benché un po' fisarmonica, hanno iniziato ad accelerare e non gli hanno ripreso quasi un secondo. Sì, per questo è stato impressionante. La cosa che non mi stupisce, perché sta nei geni di Aru, è la difesa. Sì. Non ha fatto questo scatto devastante, ha fatto un ottimo scatto, ma poi è stato bravissimo a difendere il vantaggio che si è messo in tasca. E in una salita come quella di ieri, dove i distacchi non si fanno, se guardate, cioè i distacchi ieri sono ridicoli, tranne il distacco da Fabio Aru, che certo 20 secondi è niente, ma 20 secondi comunque se li è messi in saccoccia in una tappa come quella di ieri, è un risultato mica da ridere. No, affatto. Ma quindi le prospettive di Fabio Aru cambiano? A questo punto Fabio Aru non può non salire sul podio a Parigi. Ti sbilanci come al solito. No, bravo, la diplomazia fatta intervento. Non dico che poi le dinamiche di corsa, tutto può succedere, potrebbe anche ritornare in corsa con la lanterna Rubio, per carità. Però dopo quello visto ieri, l'obiettivo minimo è il podio di Parigi, mettiamola così. Poi che ce la faccia o non ce la faccia, nel ciclismo fortunatamente ci sono un sacco di imprevisti, un sacco di avversari, e le situazioni è difficile scriverle prima. Il tour spesso è un po' più facile, ma comunque non possiamo dare nulla per certo. Però certo, è chiaro che l'obiettivo minimo è il podio di Parigi. Senti, dimmi un po' invece, Leonardo, secondo te allora prendiamo per buono l'obiettivo del podio di Parigi, di vederlo con alle spalle l'Arco di Trionfo, dove questo podio si può costruire? Cioè, allora, ci sono tappe adesso a breve dove possiamo aspettare? Allora, Angelo, io intanto sarei un attimo più sereno e diplomatico su questo. Andiamo giorno per giorno, perché ieri Aru è stato migliore. Fermi tutti, vediamo giorno per giorno, è un'altra delle frasi da inserire nella gara. Sono nel tunnel. No, seriamente, io credo che Aru ieri sia stato al massimo, in questi giorni sia al massimo della propria condizione atletica, psicologica e generale. Non so se, tocchiamo quello che c'è da toccare, riuscirà a mantenerla per tutta la durata del tour. Ora, i prossimi appuntamenti sono nel weekend, due tappe dove non ci sono arrivi in salita, il che potrebbe non essere vantaggioso per Aru, perché se ci fossero stati degli arrivi in salita l'avremmo visto probabilmente muoversi come ieri, essendo delle tappe molto diverse con delle dinamiche tattiche anche più complicate, potrebbe avere qualche difficoltà in più. Ho capito, ma magari nella tappa di domenica, che ce l'arrivo dopo la discesa, ecco, magari la tappa di domenica può essere interessante, ma deve attaccare prima della discesa, perché poi sappiamo che in discesa Froome è migliorato. E starei attento al fatto che Froome mi è apparso quello più in crescita, nonostante qualcuno giustamente abbia segnalato che il suo treno ieri un po' è sembrato meno solido del solito, però lui c'è e mi sembra che stia crescendo. Non so se Aru continuerà a crescere, me lo auguro. In questo caso il podio sarebbe ovviamente l'obiettivo minimo. E ti sei anche mangiato il pane Guttiao alla faccia di Aru, guarda che traditore. Ma sai che è solo scaramanzia. Parliamo invece degli altri. Effettivamente Leonardo faceva una riflessione anche su Froome e gli altri due, i più attesi della giornata di ieri, erano per l'appunto Froome e Port, che alcuni chiamano Porte. Tu cosa ne pensi di Froome e Porte, caro Filippo? Allora, penso che ieri si siano molto fatti sfuggire l'attimo, e questo è sempre una colpa nel ciclismo. Froome ha fatto la sua solita strategia, Trenino Sky a testa bassa e via, cercando di stremare il gruppo, strategia che ha funzionato abbastanza, anche se non come altre volte. A 2-3 km dall'arrivo erano ancora una trentina nel gruppo dei migliori, per cui insomma ce n'era da scremare. Il Trenino è vero che non ha fatto quello che abbiamo visto in altre occasioni, perché a parte Kwiatkowski, che ha fatto una performance mostruosa, non si è visto niente di clamoroso. Però anche a me Froome mi ha dato una bella impressione. Quello che mi ha dato un'impressione ancora migliore è Richie Port. Io ieri quello che ho visto salire meglio in assoluto è stato Richie Port tra gli uomini in corsa. Perché non ha... Però Port deve liberarsi da questo fardello del dire io vivo attaccato per Froome. Esatto, ieri avrebbe dovuto seguire Aru, probabilmente. Doveva andare a seguire Aru, anche perché esatto, Porta ha spremuto la squadra in maniera incomprensibile, troncando una fuga che ci avrebbe fatto parlare per mesi. Era una fuga di una bellezza commovente. Ieri nella prima parte di corsa tremavo per la gioia di questa fuga con dentro gente come Gilbert. Vero, bellissimo. Era una cosa di una bellezza. Ieri la BMC è colpevole di crimine contro l'umanità per aver troncato una fuga così bella. E Porto li ha messi sotto, gli ha fatto troncare una fuga del genere, giustamente, perché voleva vincere la tappa, e poi però quando si è prestata l'occasione non l'ha sfruttata, e anche nel finale io veramente l'ho visto salire proprio bene. Poi magari era un'impressione mia, anche l'altro giorno Fulsa anche mi ha dato l'impressione di salire benissimo, ieri abbiamo visto che sulla prima salita un po' seria si è già staccato. Si è staccato. E, però le gambe da sole non bastano e ho l'impressione che Port fino ad oggi abbia solo le gambe. E tutti gli altri, perché questi due li aspettavamo, tutti gli altri, comunque la classifica, c'è per esempio uno strepitoso Daniel Martin. Sì, rapidissimamente, intanto vorrei segnalare l'immagine che abbiamo sullo sfondo adesso, perché dice tutto della tappa di ieri, noi l'abbiamo definita brutale nel racconto post-tappa, guardate le facce di Bardet e di Daniel Martin poggiati rispettivamente a un camion e a un'automobile dopo la tappa, ma un po' tutte le facce dei corridori erano stremate ieri all'arrivo sulla planche dei Belfigli. E gli altri, abbiamo detto di Daniel Martin, strepitoso, è arrivato terzo, ha perso pochissimi secondi, certo era un arrivo che gli si diceva particolarmente, vedremo in altre tappe se riuscirà a essere a livello dei migliori. E Bardet e Yates bene, molto bene anche Rigoberto Urán, che è arrivato settimo ed è probabilmente in corsa sorprendentemente per la classifica generale. E Contador e Quintana non bene, Quintana si è staccato quasi subito, sembra lo stesso Quintana del giro in qualche modo. Sei sempre lo stesso Quintana. Sei sempre lo stesso, no, speriamo che possa migliorare anche lui e farci divertire. Contador meglio, si era staccato subito, anche era rimasto dietro Quintana, poi ha recuperato ed è arrivato insieme al gruppo di Yates e Urán. Io penso che ogni volta che si nomina Contador da qualche parte nel mondo c'è qualcuno che urla di gioia. È vero, è uno dei corridori più amati in assoluto. E poi basta, ci fermiamo perché trarre conclusioni dopo il primo arrivo in salita forse è un po' eccessivo. Ma oggi proseguiamo con la nostra analisi della tappa di ieri e in generale del tour. Abbiamo con grandissimo piacere l'onore di avere ospite, un graditissimo ospite, un riferimento di Bidon e un riferimento, io direi, in generale per tutto il giornalismo sportivo italiano. Abbiamo al telefono con noi niente meno che Marco Pastonesi. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao Marco, come stai? Benone, grazie. Dove ti trovi in questo momento? A Milano? A Bracciano. A Bracciano, che bello. Fa caldo come fa caldo a Cagliari? Non lo so. Comunque oggi fa caldo, ma qui è un posto privilegiato perché è in cima a una piccola collina e c'è sempre un filo d'aria. Ah, che bello. Beato te. Senti Marco, hai visto la tappa di ieri? Come ti è sembrato Aru? Io con te non ho mai parlato di Aru, però immagino che sia un corridore che ti piace, perché lui ha questa espressività e questa voglia di attaccare sempre. Immagino che sia uno che piace anche a te. Sì, molto, molto, perché poi è orgoglioso, è valoroso, è attaccante, è generoso. Io credo che ad Aru sia stata una fortuna il cambio di programma durante l'anno, perché quella caduta che ne ha compromesso la partecipazione al Giro d'Italia, forse dicono alcuni anche esagerata, nel senso che non era così grave da impedirgli di correre, però a quel punto, siccome non era proprio in forma, ha approfittato del cambio di programma per saltare il Giro d'Italia e puntare sul Tour de France. E credo che la cosa abbia funzionato, perché l'abbiamo visto in grandissima condizione al campionato italiano e qua sul primo arrivo in salita è riuscito a fare la differenza, la stessa differenza, lo stesso attacco, e naturalmente un po' più vicino al traguardo, però con lo stesso effetto, ecco. Secondo te può mantenere questo livello così alto a lungo durante il tour, o prima o poi avrà un calo? No, speriamo di no, ovviamente, però. Ma speriamo di no, naturalmente, però è uno dei corridori più freschi, è uno dei corridori che ha corso meno. Sommato meno, certo. E quindi potrebbe tenere, dovrebbe tenere più a lungo degli altri. Certo, certo. Ma invece Marco, adesso facciamo un passo indietro a quello che è successo 2 giorni fa con il fattaccio tra Sagan e Cavendish. Ieri tu hai scritto che, come molti altri, che è stata un po' eccessiva forse la decisione della giuria di mandare a casa Sagan dopo quello che è successo. Senti, a me mi ha lasciato perplesso la decisione in 2 round, in 2 tempi della giuria. La prima con una penalizzazione e la retrocessione, il che poteva anche starci, e la seconda volta con la squalifica. E mi ha lasciato perplesso perché i velocisti insomma, volate pulite ce ne sono poche, sì. E adesso poi in questo Tour de France mi sembra che non ci sia un treno di quelli, sai, alla Cipollini che ti metti dietro e fa tipo Keirin, no? E quindi fa la corsa, pulisce in qualche modo la strada. Certo. E qui invece è proprio lotta bellissima, lotta selvaggia, quella che a noi piace. Sono dei corsari, hai scritto tu ieri. Sì, perché i velocisti sono dei farabutti, però lì da salvarne uno fra i primi dieci è difficile, insomma. De Mar, lo stesso De Mar, forse tutto è cominciato da lui. E, probabile, e quindi, sì. Ecco, e quindi la trasgressione, l'irregolarità di Sagan mi è sembrata abbastanza veniale, anche perché provocato da Cavendish, sì. Era davanti, gli si è appoggiato Cavendish con la testa, con il casco, il movimento mi è sembrato di capire che fosse stata proprio una reazione quasi normale, quasi istintiva, no? Come dire, di cacciare via il casco, non di buttarlo contro le transenne. Poi l'effetto amplificato. È sembrato così. Cavendish è tutto meno che un santo, e ho ricordato quella porcheria che aveva fatto a Rio de Janeiro in pista nella prova dell'Omnium, e letteralmente gettando un sudcoreano addosso a Viviani. E quindi compromettendola la corsa di Viviani. Poi è andata tutto bene per noi, per Viviani, eccetera, ma Cavendish è salito sul podio, aveva la faccia del ragazzo birichino che l'aveva combinato e che aveva pescato con le mani nella marmellata. E ecco, insomma, anche stavolta devo dire che la decisione del Tour è stata veramente, stavolta è molto errata, sbagliata, forse sbagliata. Senti Marco, invece noi abbiamo un'altra curiosità. Noi sappiamo che, come ci dicevi, sei a Bracciano, ma se tu fossi in Francia, se fossi al Tour, ci sarebbe un personaggio che avresti voglia di intervistare? Cioè, chi ti piace? Chi ascolteresti tra i corridori? Ma io stavolta lascerei il gregario, lascerei la maglia nera o lanterna rossa e andrei nella testa di Froome. Io vorrei capire Chris Froome. Io mi ricordo Chris Froome quando annegava in fondo al gruppo, vestiva la maglia della Barloworld. Era uno dei corridori più lenti. Fu squalificato perché si attaccò una miraglia sul mortirolo, se non sbaglio. Sì, era ancora un'eccezione, era il keniano bianco Froome, e arrivava stravolto all'arrivo, poi ha fatto questo cambiamento. Insomma, secondo me Froome è un corridore da rivelare, ecco, da scoprire in qualche modo, misterioso. Sì, è vero. Ci sono tanti corridori che fin da piccoli hanno dimostrato il loro valore, ma anche Geraint Thomas, per esempio, è uno che ha sempre corso ad alto livello, ecco. Nibali, Aru, insomma, e poi dappertutto. Aru faceva pista, faceva cross, faceva mountain bike, cioè Aru è uno di quei corridori che è sempre stato ad alto livello. Poi possono sbocciare anche da professionisti, possono bloccarsi, soffocarsi e avvilirsi, no? Però invece Froome è appunto ma... vorrei sapere quanto c'è di anatomico, quanto c'è di umano, vorrei sapere quanto c'è di genuino, naturale, puro, sì. Quanto c'è di costruito, artificiale, artificioso. Vorrei sapere se dopo tre Tour de France vinti, in un uomo così apparentemente robotico, esiste il dubbio, esiste l'incertezza, esiste la paura, e stavolta ci sono degli avversari, è lo stesso Aru, sì, che sì, possono incrinare certe certezze, alcune certezze. E togliergli un po' del sonno, un po' della tranquillità, un po' della sua serenità. Sì, è un bel personaggio, ci intriga un sacco. E invece Marco, chiudiamo. Noi ci stiamo divertendo con questo nostro programma a ricordare e a, all'infinito le frasi fatte che si ripetono in genere durante le corse, durante il tour. Una di queste, una delle più usate, è il tour e il tour. Lo dicono giornalisti, corridori, addetti ai lavori. Tu che il tour l'hai seguito da dentro, da vicino, hai seguito il giro e un sacco di altre corse. Perché il tour e il tour? Se è vero, perché? Guarda, io ci ho pensato su e mi sono fatto questa idea, magari sbagliata, probabilmente palorda, no? Ma la bicicletta è di sinistra. Sì. La bicicletta è silenziosa, è ecologica, è democratica, è umana, è profondamente umana, è trasversale, è universale. Quindi la bicicletta è di sinistra. Sì. Il ciclismo è uno sport di destra, è frequentato da gente di destra, gli stessi corridori che erano i proletari, i sottoproletari, che erano la bassa manovalanza, che erano i forzati della strada, e che adesso invece fanno parte del ceto medio, che sono universitari, gente che sta bene, gli stessi corridori, molti sono leghisti, molti sono di destra, reazionari, sono dei self-made men, degli uomini che si sono fatti da soli, chilometri per chilometro e tappa dopo tappa, e quindi, come dire, che si sono costruiti anche a suon di pedalate, a forza di pedalate, la loro casa, la loro famiglia. Tendono a essere, insomma, dei conservatori. Il ciclismo è uno sport, come dire, dittatoriale, ecco, dove che per anni ha vissuto nella complicità, penso al doping, certo. dall'alto dal capo della federazione all'ultimo dei poveretti, dei corridori che magari non avevano neanche i soldi per aiutarsi, come dicono loro. Quindi la complicità, l'ipocrisia, l'omertà sono tutti valori di destra. Come valori? Valori appunto di destra. E il tour è dispotico, il tour è dittatoriale, il tour è tirannico. Quando si dice il tour è il tour, è perché succedono delle cose pazzesche e alle quali i corridori non possono neanche, come dire, controbattere. E se fosse successo altrove era il caos, no? Pensate alla macchina, quella di Hogerland, che scaraventò, sì. Hogerland contro il filo spinato, sì. Di cui non si sa ancora chi fosse l'autista, ecco. il tour è quello, il diktat, è un assioma, è un dogma che non si può neanche mettere in discussione. Per quello che dico, il ciclismo di alto livello è uno sport di destra. E però ci piace lo stesso. Però ci piace lo stesso, certo, tutti i nostri mesi di luglio, è la nostra vacanza, una vacanza dalla vita, no? Dalla vita di tutti i giorni, dalle bollette, dai soprusi, dall'immondizia, ecco, questa è la... il tour è uno spazio che ci creiamo per mettere a confronto, come su in una prova a inseguimento, la realtà e i sogni. Il tour è il tour, insomma, alla fine. Dai Marco, ti ringraziamo per quello che ci hai detto. Poi se vuoi ci risentiamo, perché poi dovremo parlare anche degli ultimi. Ieri gli ultimi due della tappa sono stati Cimolai e Guarnieri, e magari saranno in lotta per la Lanterna Rossa e ti chiameremo in causa per questo e per altro, perché potremmo parlare per ore con te. Grazie a te, alla prossima. Ciao, buona giornata. Grazie mille a Marco Pastonesi. Fantastico. Siamo, sì, veramente un intervento estremamente interessante. Oggi saremo più lunghi, ma ne valeva la pena. Assolutamente. Dire. Vedo già che i commenti sulle osservazioni di Marco Pastonesi fioccano. Non mancano. Assolutamente, ma noi proseguiamo, andiamo avanti perché con noi un punto siamo... necessario, perché le bollette ci sono e bisogna pagarle, anche se c'è il tour. E quindi, per pagare le bollette, per fare in modo che la baracca vada avanti, è arrivato il momento dell'amatissimo sponsor. Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Certo, piccolina. Era il 1959 e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono, perché gli orologi... avevano al posto del numero 12 il 13. Ma se sai già tutto, nonno, cosa ci sta a fare? Mi fai un regalino? La collezione degli orologi d'oro sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850 50 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume sulla storia del punto a croce. 850 80 90 60 70 80. Ma questa era la mia battuta. Sì, nonno, ma eri lento. Mo ti riporto da tua madre. Angelo, io ieri ho provato a comporre questo numero, ma non mi ha risposto nessuno. Dico, linee sempre attive, ma... sì, ieri... sono attive le linee. Sono attive, me lo confermi. Sì, assolutamente, ma perché devi sempre denigrare le cose, le linee non sono... Il progetto funziona, il prodotto va via, funziona, si vende, è bello. Il pane, si vende sbagliato come il pane, del tutto. Assolutamente, si vende un po' più del pane. Del pane, del pane leggermente Guttiao. Di più del pane Guttiao, è dorato, come il pane Guttiao. Ben unto. Ma comunque noi andiamo avanti. Sì, siamo... dopo avendo ringraziato e inchinandoci di fronte allo sponsor, continuiamo con la gara che continua, perché il tour è ancora lungo. E vediamo la tappa di oggi. Oggi pomeriggio abbiamo, come sempre, i resoconti. Anzi no, no, la è un attimo, descrizione, una cosa alla volta. La descrizione del nostro ottimo Pietro Pisaneschi, con la tappa che verrà. Tappa numero 6. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della sesta tappa di questo Tour de France 2017 da Vesoul a Troyes per 206 km. Una tappa definita pianeggiante che si snoda attraverso i dipartimenti dell'Alta Saona, dell'Alta Marna e dell'Aube e che, con amplissima possibilità, vedrà la vittoria di un velocista. Si parte da Vesoul, città che dà il titolo ad una nota canzone di Jacques Brel, e si affronta la prima delle due salite in programma dopo circa una sessantina di chilometri, la Côte de Langres, 1.3 km intorno al 6%. La seconda difficoltà altimetrica di giornata verrà affrontata dal gruppo ad oltre 60 km dall'arrivo. Si tratta della Côte de la Colline de Saint-Germain, 3.1 km al 4.4%. Ricordiamo che entrambe le côte sono segnalate come salita di quarta categoria dall'organizzazione del Tour de France. Dalla cima della collina de Saint-Germain il gruppo incontrerà solo pianura fino al traguardo di Troyes, città dove fu fondata dal tennista André Lacoste l'omonima celeberrima marca di polo, ma anche un luogo legato in qualche modo al ciclismo. Ivi infatti nacque Armand de las Cuevas e ivi morì, durante la prima guerra mondiale, il due volte vincitore del Tour de France, Lucien Petit-Betron. Come detto, è difficile escludere una nuova volata e dunque i nomi caldi sono quelli di Kittel e De Mar, i due soli velocisti ad aver trionfato fino adesso in questo tour, con Greipel, Boigny, Christophe e Colbrelli pronti a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro di questa Grand Boucle. Purtroppo saranno assenti due assi della volata come Cavendish e Sagan, coinvolti loro malgrado nel giallo della gomitata sul traguardo di Vittel. L'appuntamento è a domani con la presentazione della settima tappa del tour. Vi invito a seguire il post-tappa ovviamente su Bidon e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P, au revoir! Come sempre al nostro Pietro, all'ottimo Pietro, si è dimenticato di dire. Sì, sì, diciamo all'olimpionico, nel senso dell'Olimpo. Oggi è tutto Zeus. Dici un po', Filippo, ci sei ancora? Ci sono, mi sono dovuto spostare perché è iniziato a suonare un allarme alle mie spalle, non sarebbe stata una buona presenza e per cui mi sono spostato al Vigoretti. Ho preso in linea con... Quindi la storia del ciclismo. Direttamente sì, dalla storia del ciclismo, dici se lo sprint di oggi sarà meno incasinato perché non ci sono Sagan e Cavendish o più incasinato perché non ci sono Sagan e Cavendish? No, sarà meno incasinato perché pian piano i treni si struttureranno e sicuramente già ad esempio hai tolto una squadra perché la dimensione non è più tenuta a far la volata, a Bora, a meno che non faccia la volata con Yurai, che se tu devo saresti studiata, però non penso che si metterà molto in mezzo. È chiaro che più si scremano anche i velocisti per le più varie ragioni, le cose diventano più ordinarie. Possibilità di una fuga? Una proprio standard, no. Vabbè, io ieri, cioè, ho dovuto spedito io il pane Carasau, perché stava a me da per quanto ho sbagliato il pronostico. E li sbaglio sempre, lo sbaglierò anche oggi, ma io oggi mi vedo proprio una volata di... Io non ho voluto infierire sui tradizionali possibili, per cui i nomi poi sono gli stessi che ha fatto Pietrone, c'è molto da aggiungere. Non ho voluto infierire sul pronostico di ieri, sono passato avanti con nonchalance. Erano sottovalutiamo Yurai Sagan, perché è il suo momento. Qualche giorno fa ci siamo chiesti quali fossero i suoi talenti. Senza il fratello magari viene fuori Yurai. Ma lo speriamo ardentemente, sarebbe una grande Io storia. Tifo Yurai Sagan. Sì, immagino che sia Burkhardt però. Tu Buani. Oggi. Ma tifo, non penso sia il favorito, però mi piacerebbe vincere Buani. Cioè, no. L'unico che non ha fatto niente nella famosa volata, l'unico puro. Che in genere però non è purissimo. Dai, io non vedo l'ora di passare alla prossima rubrica. Assolutamente, salutiamo Filippo, ti ringraziamo come sempre. Le frasi fatte? O non c'è oggi, tutte le frasi fatte. Ne parleremo alla fine. Ce l'hai tu un al volo? Perché, no, l'ha detta Marco. Ringrazio Marco se ci sta ascoltando per la sua presenza e per la sua amicizia. E ha esordito con una grandissima frase fatta, la bicicletta di sinistra. Vero. È veramente un grande classico, direi che va aggiunto all'elenco. Lo aggiungeremo, lo metteremo. Grazie Filippo. Perché il mio orologio sbagliato del tour che ho ordinato e mi sono stati recapitati in tempo zero, chiamate al numero... A te è arrivato? A me non rispondono nemmeno al telefono. Devi parlare con la nipotina, non con nonno. Ah, ok. Lei gestisce le spedizioni. Ah, vabbè, oggi ci provo. Ciao Filippo, buona giornata. È arrivato il momento della rubrica più attesa da tutti, dal grande successo, della rivelazione di questo futuro premio Nobel. Così. Abbiamo il momento di Fiammetta Ruiu, la nostra inviata in Francia, che anche oggi ha raccolto una storia estremamente bella. E è andata a Troyes? È andata a Troyes, dove sono stato anche io, tra l'altro, nel mio passato. È andata lei a Troyes, ha trovato questa storia. Preparate tutti quanti la pelle da irone, perché... è il momento dei resoconti Ocra. Questa storia inizia dove il cielo incontra la terra e la terra incontra il cielo. Sì. Poi però per lo più il cielo incontra il cielo e la terra incontra la terra. Ah. Questa storia inizia in una terra di incontri autonomi, dove il cielo sta per fatti suoi e la terra pure. Che ogni tristezza. Tanto si incontrano, sì, ma niente più di un buongiorno buonasera. La terra preferisce di gran lunga incontrare la terra, il cielo preferisce incontrare il cielo. Cielo, che nel suo apocalittico blu riempie gli occhi di Franco, sapiente Franco. Sarto con la passione della poesia. Nell'animo nobile di Franco sorge il verso di una sfida. Sì. Cucire il primo poema tessile di Troyes. Poema vai tessile. Franco, vai. Compra metri di tessuto, vai, cuci Franco. Senza sosta, intreccia le linee dei tuoi desideri e genera con le tue mani sapienti il primo poema tessile, non solo di Troyes, no, ma della globosfera. Ma la globosfera. Il mondo degli uomini non accetta di buon grado tutto ciò che travalica il limite del buonsenso e del comprensibile. Grazie a Dio. Il poema tessile di Franco sembra una tovaglia. Nessuno lo capisce, a nessuno piace, nessuno è interessato al progetto di Franco. No. Anche Franco ha difficoltà a capire cosa sia il suo stesso progetto. E anche noi. Così. Il poema tessile di Franco, che sembra una tovaglia, sì, viene usato come tovaglia. No, giustamente. Un duro colpo per Franco, che perde l'entusiasmo, perde la sartoria, perde casa, perde moglie e perde il filo del discorso. Povero Franco. Ora, negli occhi di Franco, smaniosi e frangianti, frangianti, c'è solo una grande tovaglia che sembra una tovaglia perché è una tovaglia. No, e tanta malinconia. Mentre no, una lacrima trapunta il suo viso, un airone seziona il cielo, attonito. Questa storia di oggi è veramente bella. Mi sento una tovaglia sul cuore oggi. Mi ha trapuntato l'anima di tristezza questa storia. È bellissima. Ma perché dobbiamo ridurci? Cioè abbiamo avuto Marco Pastonesi che ci ha fatto il discorso che ci ha fatto sul ciclismo e poi chiudiamo con Fiammetta Ruiu che parla di Franco. Ma vedi, purtroppo Io non sprecherò neanche parole con te, perché purtroppo se il tuo cuore è duro e non riesci a capire la storia di Franco, dell'arte, di questo sarto che crede nel poema tessile... Ma che roba è? Cosa ti vengo a spiegare? No, non potrai capirlo mai. Non hai il cuor gentile per recitare la storia del... Vabbè, invece facciamo una cosa più interessante di queste... piccolezze, sì, perché dobbiamo ricordarvi del nostro certo contest, la nostra gara. Come vi ricordiamo che sulla pagina di Bidon c'è la possibilità di votare ancora tra le frasi fatte delle commenti delle dirette televisive più frasi fatte delle dirette televisive. C'è una frase che sta per vincere in maniera evidente, ma andate, votate ancora, votate, poche votate. Ore. Ce ne sono nuove new entry che adesso vi leggeremo. Per esempio, una è: nella cronometro dell'ultimo giorno i valori si rivelano. Sempre si rivelano, è ovvio. E poi c'è quest'altra molto bella, che un po' richiama il discorso di oggi. È il tour che fa grandi i corridori e non i corridori che fanno grande il tour, ricorda Angelo. E poi c'è un'altra frase che noi useremo presto, cioè l'unico modo per staccare Froome è isolarlo. Non è vero, perché ieri Aru l'ha staccato senza isolarlo, quando aveva ancora i compagni di squadra. La frase è giusta. Però la frase è giusta. E poi questa frase che forse oggi non vale molto, però la diciamo lo stesso: tra poco comincia la bagarre. Sì, tra poco incomincia la bagarre. Ragazzi, proprio perché sta per incominciare la bagarre, allora con un ritmo crescente vi ricordiamo di seguirci sui social media, aspettate come me trepidamente il post serale di Bidon, noi saremo, sì, in diretta domani da Cagliari alle 11 nuovamente, commentate, votate, fateci sapere cosa ne pensate. Ci dite se vi piace questo Bonjour Bidon o se dobbiamo chiuderlo domani mattina. Assolutamente, guardate che il tour è ancora lungo, noi dobbiamo andare avanti con altre 20 puntate, quindi fateci sapere qualcosa. Detto questo, salutiamo con una frase bellissima, la nostra classica frase, ovvero rimanete col ciclismo che tanto domani cambiamo. Rimanete col ciclismo che tra poco incomincia la bagarre. Sì. Dino Zandegu, ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'ho visto il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis Jean Bobet.